Già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, già, non dimenticarti questo consiglio. Già, già, già, già. Cieli blu, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, non dimenticarti questo consiglio. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, segui la felice ancora sarai. Prendi una matita, prendi una matita e disegna un lago azzurro. Buttaci i pensieri, tutti i dispiaceri e sorridi al mondo intero. Cieli blu, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, giù, non dimenticarti questo consiglio. Gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, gi, segui la felice ancora sarai. Prendi una matita, prendi una matita e disegna un lago azzurro. Buttaci i pensieri, tutti i dispiaceri e sorridi al mondo intero. Di questo consiglio. Gio gio gi gia gi gi gi gi gi gi.